Italia in controluce. In studio Daniele Biacchesi, il 2 novembre, Italia in controluce, come sempre l'appuntamento con l'approfondimento della redazione di Radio 24. Oggi abbiamo deciso di parlare di Fiat, dello stop del governo alla Fiat sul caso Pomigliano, perché ieri i ministri Fornero e Passera si sono schierati contro Marchionne sul licenziamento di 19 operai dopo la sentenza sui lavoratori FIOM. Napolitano e Monti proteggono l'Italia dai vertici Fiat, ha detto ieri Della Valle. Le critiche contro Marchionne vanno oggi dai sindacati alla politica. Poco fa è intervenuto anche il leader del Partito Democratico Pierluigi Bersani. Secondo voi ha fatto bene il governo ad intervenire contro i licenziamenti Fiat? 349-238-6666. Io saluto subito Andrea Malan del Sole 24 Ore, che segue la Fiat da molti anni. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Sentiamo la ricostruzione di Raffaella Calanda. Buongiorno Calanda. Sì Daniele, la questione Fiat ruota ancora una volta intorno a Pomigliano, davanti ai cancelli dello stabilimento divenuto un po' il simbolo del braccio di ferro tra il Lingotto e la FIOM. Si preparano nuovi giorni di proteste e di tensioni dopo l'annuncio dell'azienda torinese di mettere in mobilità, come ricordavi, 19 operai in risposta al reintegro di altrettante tute blu stabilito dalla Corte d'Appello di Roma. Una decisione che non è piaciuta al governo, che per bocca dei ministri Passera e Fornero invita l'amministratore delegato Sergio Marchionne a fermarsi e apre ad un tavolo di trattative. Sono costretto perché il lavoro manca anche per chi è già assunto, ha già spiegato ieri l'amministratore delegato Marchionne, ma la sua decisione porta sulle barricate tutti i sindacati che preannunciano azioni legali nel caso in cui la Fiat andasse avanti nella sua annunciata intenzione di licenziare i 19 dipendenti. Lo dice la UILM, lo conferma la CISL di Bonanni e la FIOM va ancora oltre. Sono licenziamenti illegittimi e temo che nascondano altro. Ora ho paura per l'assunzione degli altri 2000, commenta Giorgio Airaudo, responsabile auto della FIOM. Sentiamo. Trovo che quello del governo sia in qualche modo un atto dovuto. Credo che non si dovesse aspettare che la Fiat mettesse in pratica una ritorsione nei confronti di una sentenza. Peraltro io credo che questi licenziamenti siano illegittimi. Marchionne però ieri ha detto: abbiamo la cassa integrazione per 19 che entrano, 19 vanno in mobilità, non posso permettermi neanche una persona in più. Entro il 17 luglio del prossimo anno devono rientrare in FIP, che è la nuova società che la Fiat ha costituito, devono rientrare 2300 lavoratori. Ora io non riesco a pensare che sia vero che lui non possa permettersi 19 lavoratori in più alla fine di novembre, ma se ne possa permettere 2300 alla fine di giugno, fra 8 mesi. Che debbano rientrare tutti i lavoratori del Giovan Battista Vico dentro la FIP, sempre di proprietà Fiat, è pacifico e palese fin dall'inizio. Io temo che lui ci stia dicendo altro, se davvero non possono entrare 19 lavoratori. Cioè? Ci stia dicendo che non è in grado di assumerne 2300. In questo caso ci sarebbe un esubero e quindi la salvaguardia degli impianti non corrisponderebbe alla salvaguardia dell'occupazione. E quindi allora, secondo lei Marchionne ci dice che c'è un problema strutturale, che lui non è più in grado di mantenere l'impegno di salvaguardare tutta l'occupazione dell'ex stabilimento di Pomigliano, o se no non può dire che ha un problema per 19. Quindi secondo lei questo annuncio di mettere in mobilità altre 19, voi lo leggete come un segnale rispetto all'assunzione di questi altri 2000 dipendenti? Assolutamente sì, o si è sbagliato o se no ci sta annunciando che c'è un problema più grande. Ecco, tutto questo però arriva a poche ore dopo l'annuncio da parte della stessa Fiat di nuovi investimenti in Italia. Un dettaglio di investimenti Marchionne non l'ha dato. Buona l'intenzione di andare sulle auto di gamma medio-alta, ma non si può non registrare che le auto di gamma medio-alta sono sempre stati un punto di sofferenza dei marchi Fiat, un punto di sofferenza dello stesso Marchionne. Quindi voi non ci credete a questa notizia di nuovi investimenti? Non ci crediamo perché non è dettagliata. Altri suoi colleghi, a cominciare dal segretario della CISL Raffaele Bonanni, dicono alla FIOM di finirla con questo gioco al massacro, rispetti la volontà della maggioranza e firmi gli accordi. Noi firmiamo gli accordi che ci convincono e gli accordi che sono decisi dai lavoratori, in modo libero. La Fiat dovrebbe restituire tutti i soldi, dice un nostro ascoltatore, quelli che lo Stato gli ha dato negli anni perché noi li pretendiamo. Un altro ascoltatore che non si firma, ma aggiungo che sarebbe meglio firmare questi sms al 349-238-6666, perché siamo una radio, quindi una emittente pubblica. Sono d'accordo con Fiat, dice un altro ascoltatore, vuoi vedere ora che l'impresa privata deve sottostare alla magistratura, forse io Fiat me ne andrei del tutto, che fossero i magistrati a pagare questi operai, se non c'è lavoro vale anche per gli operai della FIOM, e così poi politicamente da criticare, da imprenditore legittima difesa, i politici non possono che criticare ma loro parlano, dice Dominique da Caserta. Andrea Malan, che idea ti sei fatto? Ma ci possono essere preoccupazioni per l'assunzione di altri 2300 lavoratori? Dunque, la situazione è complicata. Io distinguerei le due cose. Prima una piccola osservazione sulla vertenza sindacale, sul dissidio, sulla lite, sulla lotta, sulla battaglia tra Fiat e FIOM. Ricordiamo solo qualche data. Aprile 2010, piano Fabbrica Italia. Tre mesi dopo c'è l'accordo su Pomigliano, che è il primo stabilimento, accordo firmato da tutte le sigle tranne la FIOM. E fin dall'inizio, da un lato la FIOM sceglie la linea dura facendo causa, portando in tribunale la Fiat denunciando il nuovo contratto. Dall'altro la Fiat stessa, ricordo nel luglio del 2010, licenzia per esempio tre rappresentanti FIOM allo stabilimento di Melfi per blocco della produzione. Di qui diciamo l'avvertenza è andata avanti nei tribunali con vittorie ora per l'una ora per l'altra parte, e si è arrivati fino adesso con l'appello che avete ricordato del governo a rimettersi attorno a un tavolo finalmente negoziale. Per quanto riguarda l'obbligo di riassunzione del 19, ricordo solo che ci sono state due sentenze quest'anno, appunto, sia in primo grado che in appello, che hanno valutato come antisindacale il comportamento della Fiat, che in sostanza ha assunto 2.000 persone nella nuova Pomigliano senza che tra questi 2.000 vi fosse un solo tesserato FIOM. I giudici hanno valutato che la cosa non può essere casuale e quindi, siccome in Italia appunto la legge vieta discriminare in base alla tessera sindacale, l'hanno condannata a riassumere un certo numero di iscritti alla FIOM. Questa è la situazione dal punto di vista sindacale ed è quello che hanno deciso i magistrati. Veniamo invece al discorso sostanziale. Marchionne è sempre stato molto attento fin dall'inizio sul discorso Pomigliano a dire: noi riassumeremo tutti, si è impegnato a riassumere tutti compatibilmente con le condizioni del mercato, quindi ha detto: noi prevediamo di produrre 250.000 fino a 270.000 Panda all'anno e riassumeremo quindi gradualmente i lavoratori. Adesso siamo a un ritmo di produzione che è molto inferiore. Pomigliano, anche quelli assunti, i 2.150 assunti a Pomigliano attualmente lavorano poco più di una settimana su due. Ricordiamo che questa settimana tutti gli stabilimenti Fiat in Italia erano in cassa integrazione e quindi le prospettive, e arrivo finalmente alla domanda che mi hai fatto, per l'assunzione dei 2.300 residui ancora in cassa integrazione del vecchio stabilimento di Pomigliano, effettivamente sono incerte. Il mercato è molto difficile, lo sappiamo, i dati di ottobre non sono ancora arrivati, ma certo non saranno molto migliori di quelli precedenti, che erano veramente un disastro, diciamo. Esatto, quindi la Panda nuova non va come le attese, come del resto non vanno bene gli altri modelli vecchi, e quindi oggettivamente c'è un problema congiunturale. Ricordiamo anche, non per spezzare necessariamente una lancia in favore della Fiat, ma la congiuntura è difficile per tutti e Marchionne lo ha ricordato nei giorni scorsi, Fiat si è impegnata comunque a non chiudere gli stabilimenti, mentre la maggior parte degli altri concorrenti in Europa stanno chiudendo stabilimenti, lo ha annunciato la Ford, lo ha annunciato la Peugeot, dovrebbe annunciarlo entro poche settimane anche la Opel. Bene, Andrea, io ti ringrazio. Abbiamo da fare sentire una testimonianza, quella di Maurizio Rea, che è uno dei 19 operai a Fiom che sarà reintegrato in base alla sentenza del Tribunale. Vi abbiamo chiesto se ha fatto bene il governo di intervenire contro i licenziamenti Fiat. Molti sono gli sms. Uno annuncia che non comprerà mai più Fiat, altri dicono di dire a Della Valle di stare un po' zitto. Almeno così lo dice Stefano da Milano. Ha fatto benissimo il governo, meglio tardi che mai. Dopo il sindacato Fiat vorrebbe demolire anche la legislazione e la giustizia del lavoro, dice Cristiana. Sentiamo uno dei 19 operai Fiom che sarà reintegrato, sempre al microfono della nostra Raffaella Calanda. Siamo amareggiati per questa scelta, vogliono far scatenare una guerra che noi praticamente non accetteremo, anche perché noi praticamente stiamo rivendicando che dobbiamo entrare tutti i 5.000 in fabbrica. Come l'atmosfera all'interno dello stabilimento di Pomigliano? L'atmosfera all'interno dello stabilimento è brutta. Da parte degli altri, il fatto che la vostra battaglia giudiziaria ora porti alla mobilità di altre persone, voi temete che ci possano essere delle ripercussioni nei vostri confronti, nelle dinamiche con i colleghi? Cioè, io non voglio proprio pensare a una guerra tra di noi. Non possiamo essere lasciati soli rispetto a un altro tipo di minacce di questo tipo. Qua si parla della pelle delle famiglie. Prima che avvenisse di questo annuncio da parte di Fiat che metterà fuori 19 persone, ce l'hanno testimoniata ai cancelli, che erano contenti che noi rientravamo in fabbrica, era ben visto da parte loro il nostro rientro. Poi è venuto fuori questo triste annuncio l'altro ieri, e in queste ore lo vedremo quello che succederà. È una situazione che lascia la mano in bocca a tutti quanti. Siamo su Facebook, pagina gruppo, Twitter, controluce@radio24.it. Lunedì, vi ricordo, scuola in controluce con Piera Ceci. Riprendiamo la narrazione quotidiana di Italia in controluce a partire da martedì.